Si può fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno Laura e buongiorno a tutti gli ascoltatori e al nostro regista. Esattamente, Paolo Corleoni oggi ci accompagna in regia, c'è Edoardo Lavezzari in assistenza. Oggi gli ho passato un numero di telefono straordinario. Credo che passerà molto tempo in conversazione con un altro paese. E comunque, non ci dici niente, no, è tutta una sorpresa. Sorpresona per domani. Domani. State con noi e domani saprete con quale paese del mondo ci collegheremo. E non è però il quiz di oggi indovinare con quale paese ci collegheremo. Oggi abbiamo il quiz, come giustamente ricordavi, però è il nostro tradizionale quiz e non è quella la domanda alla quale dovrete rispondere. Potete telefonare all'800 24 0024, noi vi poniamo una questione con tre possibili risposte. Sì, una notizia con tre possibili finali e voi dovete indovinare qual è il finale corretto. Se indovinate vi portate a casa due biglietti per la mostra Impressioni d'Oriente al MUDEC di Milano. Precisamente, 800 24 0024, potete cominciare già a prenotarvi per il quiz. E poi come sempre c'è il 349 238 6666 per i vostri messaggi, le vostre osservazioni anche sui temi che tratteremo nel corso di questa puntata. Ce n'è uno in particolare che mi piace, mi fa sorridere l'idea che si possa regalare un albero alla città dedicandolo ai propri cari. Io così presa all'improvviso non saprei dire a chi vorrei dedicare un albero, perché poi si dice ai propri cari, si può dedicare a chiunque. Io voglio dedicare l'albero a Mahatma Gandhi, perché no? O ai cari degli altri, tu dici, o anche a dei nemici, per esempio. Sì, come portare fiori, mettete i fiori nei vostri cannoni, io ti regalo un albero, così almeno facciamo pace magari, o comunque parliamo d'altro per una volta. No, io non trovo ci molto bello questa questione della dedica, è un progetto di Firenze, giusto? Sì. Dove hanno deciso di piantare 400 nuovi alberi e chiunque voglia, andando online, può dedicarne uno con la spesa di 150 euro, si decide che cosa scrivere sulla targhetta. Non ho capito se le persone a cui si dedica debbano essere per forza defunto, possono essere anche vive, perché di solito le strade vengono dedicate a persone che non ci sono più, però secondo me gli alberi forse si può fare anche a persone viventi. Ma non so, qualche fiorentino potrebbe dirci di più di questa iniziativa Dona un albero con dedica. Io direi che si possa dedicare anche alle persone vive. Anch'io credo, soprattutto è quello che noi vogliamo sentire dai nostri ascoltatori, giusto? Quello che vi stiamo chiedendo è: chiamate per dirci a chi dedichereste voi un albero. Non costa 150 euro la telefonata, ovviamente, ma siamo molto curiosi di mappare, visto che abbiamo parlato anche della questione delle strade, che sono molto più maschili, ci sono pochissime strade femminili. Questo non vuol dire che dovete dedicare l'albero per forza a una donna, anzi potete anche dedicarlo a un uomo, di modo che si ricordi che ci sono anche le donne. Precisamente. Però mi domandavo, ma se poi non si va più d'accordo, per esempio io ti dedico un albero a te e adesso ci vogliamo bene e poi passa un anno e io te lo voglio sdedicare, si può? Questo è interessantissimo, secondo me se si litighiamo, può con altri 300 euro però io direi presto chiamiamo il comune di Firenze e chiediamola questa cosa, perché è molto interessante. In effetti uno dice sì, glielo volevo dedicare, ma adesso ci siamo lasciati, ma guarda come si è comportato. Tutte le volte che passo di lì vedo sto platano e mi viene voglia di tirargli delle testate, oppure seghiamo l'albero e bah, si ricomincia. Vabbè, questa è una delle possibilità, diciamo. Giusto. Però potete chiamare anche semplicemente per partecipare, anche se noi siamo curiosi di sapere a chi dedichereste il vostro albero. Senti, tu hai trovato una buona notizia questa settimana? Guarda, non so quanto sia una buona notizia, ma ho deciso che era giusto che fosse questo il tema. Però secondo me la buona notizia è che forse quest'anno non siamo obbligati a vedere il Festival di Sanremo. Dico questo anche se io amo il festival, lo guardo, spesso mi ha deluso, anche annoiato, però penso che il festival sia lo specchio del paese e penso, se mi passi Laura, un paragone poco rispettoso, che Sanremo sia un po' come la messa, cioè la gran parte degli elementi è normale che resti immutabile anche a rischio di essere noiosi, ripetitivi, prevedibili, perché è così, è la funzione, è il rito collettivo fondato sulla tradizione, però il cuore, il messaggio, ciò che nella messa di diciamo, è la predica. Ciò per cui, se è veramente lì, deve essere attuale, contemporaneo, deve rivolgersi ai fedeli, ma vivi possibilmente. Ascoltando invece le parole dette in conferenza stampa da Amadeus, è come se dallo specchio del paese fosse saltato fuori lui in persona, avesse cacciato due dita negli occhi a tutti noi che paghiamo in bolletta il suo stipendio di conduttore pubblico. Per tener testa con tanta statura di maschio alfa, Amadeus ha scelto un harem di 12 donne che dichiara esplicito sono state scelte per la loro bellezza. Cioè, lasciando intendere che non abbiano altri meriti se non il proprio aspetto fisico. E uno dice, vabbè, sarà uno scivolone, capita, è una cosa che si dice. No, no, perché subito dopo arriviamo alla sua scommessa personale, ovvero la modella Francesca Sofia Novello che, dice Amadeus, è la fidanzata di Valentino Rossi. E l'ho scelta perché è bella e per la capacità di stare con un grande uomo stando un passo indietro. Scusa, ma nel 2020 una donna il cui valore è quello di sposare magari un uomo ricco e famoso, grazie alla sua incredibile indole a stare un passo indietro, in ombra, zitta, per non dar troppo fastidio? Questa è la donna che Rai 1 intende valorizzare e portare come esempio? Ma perché allora non delle vallette che preparano il caffè in tanga, no? Questa, oppure un corpo di ballo di mondine, oppure un gruppo di sole ballerine di colore che annunciano raccogliendo cotone. Io capisco le molte donne, tra cui tra l'altro anche i Man Jane in primissima fila, che abbiamo avuto nostra ospite, esatto, poche puntate fa, che hanno detto chiaro: se questo è ciò che pensate di noi, noi non abbiamo bisogno di voi e boicotteremo Sanremo. Parliamo di servizio pubblico, quindi mi sembra sacrosanto il progetto. Poi vediamo come andrà avanti questa questione. E dico semplicemente ad Amadeus che sappia che nel 2020 nemmeno la messa è più in latino. Si svegli, io non vorrei che decidesse di tornare ancora più indietro, non so, presentare la kermesse con Grugniti, la clava, una donna trascinata sul palco per i capelli come nei Flintstone. Vilma, annuncia il prossimo. Oh, Vilma la clava. Esatto. Allora, no, sono d'accordo anche sullo specifico della modella di Valentino Rossi. Insomma, penso che lì se gli sia venuta fuori male. Però certo, tutto il resto non ci ha fatto, diciamo, pensare bene, ecco, della costruzione di questa conduzione. Ecco, perché se anche lì c'è stato uno scivolone che forse voleva dire è una che non si è fatta scudo, non ha portato avanti il fidanzato per farsi strada, magari voleva però dire, però allora non presentarlo, che lei è scelta, sì, perché esatto, è la sua fidanzata. Se c'è una cosa che io personalmente non sopporto sono le presentazioni la bella e brava. No, beh, brava ancora, no, ancora, ma no, bella iniziami va, da brava, esatto. Poi se no, se parliamo di un contesto di modelle puoi dire bella finché bravissimo vuoi. Bravissimo, ma qui ma c'erano giornalisti del TG1. Per essere parlanti e pensanti non devi dire prima bella e poi brava. Sono molto d'accordo. Lui ha ovviamente, però, si è scusato, anzi no, non si è veramente scusato, perché l'ho letto fino a stamattina dicendo se si scusa evito di parlare anche della questione, ma in realtà l'unica cosa che lui ha detto non sono sessista perché sono sposato con una donna ed è la stessa donna da 18 anni e ho una figlia dire? Che è femmina e la adoro. Onestamente non è sufficiente per dire non sono sessista, nel senso che tutti i sessisti tendenzialmente sono sposati con una donna. Allora, arrivano già alcuni messaggi per l'albero, no? Poi adesso arrivano anche messaggi su questa questione delle donne a Sanremo, ma questa la vediamo via via nel corso di giornata. Voi continuate a scrivere, tra l'altro avremo ospite anche Marta Cagnola, che è la nostra collega che va tutti gli anni a Sanremo. Esatto, quindi anche per quello, perché lo chiediamo anche a lei. Lo chiediamo anche a lei, che chiediamo sicuramente del cinema, che è un altro dei suoi grandi cavalli di battaglia, perché quest'anno ci sono finalmente dei buoni risultati, ma chiederemo anche il suo parere su questa questione. Giusto. Delle donne presentatrici. Dicevo, sono arrivati alcuni messaggi. Sappiate che non ci potete telefonare in diretta da WhatsApp. Adesso io stavo cercando di leggere i messaggi, è partita una telefonata. Però, per esempio, dedicherei un albero a mio padre che non c'è più. Uno lo vorrebbe dedicare a noi, ma mi pare troppo. Un albero dedicato ai dentisti, chi più caro. Qui c'è dell'ironia. Beh, giusto. Ovviamente. E anche un albero dedicato a ciascuna delle mie nipotine, dice Angela. Beh, quindi la signora vuole investire diversi soldini. Però non sappiamo, certo, tu dici almeno due, giustamente, molto giusto. Vediamo, c'è anche qualcuno in diretta, ecco, in diretta da Firenze, c'è Ambretta, buongiorno, vuole parlarci dell'albero, quale momento più opportuno? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno carissimi e bravissimi. Grazie. No, volevo dire, siccome avete fatto la domanda, non si sa se dedicarlo alle persone morte o vive, sì. I miei amici se lo sono, volevo dire solo questo come testimonianza, i miei amici se lo sono regalato per Natale con il proprio nome. Si sono fatti quello di regalo, praticamente hanno preso quest'albero e se lo sono regalato, quindi si può regalarlo tranquillamente a chi si vuole. Giustamente, autodedicarselo si può, e lei ha anche risposto automaticamente alla domanda che faceva Laura, cioè se uno poi dopo non vuole più bene a quella persona, ecco, una delle soluzioni... Ma sono sposati da 60 anni, ma è una storia bellissima! Quindi c'erano anche da celebrare delle nozze particolari, insomma. Ma quindi l'hanno fatto realmente, perché lei è di Firenze, supponiamo che l'abbiano fatto veramente. No, sono proprio i miei amici, l'hanno fatto veramente, sono, ormai no, se lo fanno due ragazzi può darsi che si lasciano, ma loro ormai... Certo. Ma dove li piantano? Mai dire mai, ma comunque intanto siamo molto contenti che di questi 400 alberi noi intanto in diretta abbiamo dato il primo, che sicuramente sarà, anzi il primo e il secondo, se ne sono dedicato uno o uno a testa? No, uno insieme. Giustamente, insomma, economia di scala, sono sposati da 60 anni, si risparmia. Dove lo piantano quest'albero? Dove viene piantato? Mi sembra l'abbiano scelto su un viale o di preciso. Si può anche dire dove? E anche che tipo di pianta ho visto? Ci sono 10 tipi di piante. Sì, tutto. Sì. Si può sia dire il tipo di pianta e anche dove lo vuoi. Loro magari ti danno delle indicazioni, ecco, certo. Non è che lo puoi dire. C'è dei punti ben precisi dove lo puoi mettere e te gli dici sì, io preferisco lì o là. Ecco. Certo, non proprio davanti al David, che mi sembra, diciamo, non vietato. Non ecco. La terra, lì per metterlo. Giusto. Va bene. Grazie. Comunque, Ambretta, grazie mille di queste comunicazioni. Arrivederci. Grazie veramente, buon sabato. Grazie. Oh, io sulla questione vedo che è la questione conduttrici e conduttori, dice io voglio vedere belle donne, allora io voglio vedere belli uomini. Ma soprattutto, guarda, ma mi pare un'assurdità. Fai l'esempio giusto. Pensa se uno disse abbiamo scelto questo passaggio perché è un figo incredibile. E fine. Cioè, sarebbe nessun uomo viene presentato. Ma io non lo considererei parità, io lo considererei un abbassamento del livello. Poi dopo, ragazzi, ognuno è libero di pensare quello che vuole. Però allora abbiamo la viabilità e poi per l'appunto con Marta parliamo di cinema e di Sanremo. A tra poco. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better. Allora, l'ho lasciata andare un pochino di più perché mi piaceva, non hai so, fatto beh, vedevo che tutti ballettavano, insomma mi sembrava un buon momento, ecco, sono le 8:45, una piccola iniezione di buon umore, un po' di ritmo. E poi con tutti i temi che abbiamo già messo in campo forse vale anche la pena di riflettere un attimo, no? Prima di proseguire. Scusami, ti devo leggere un messaggino di uno che vuole dedicare il suo albero agli alberi. Siccome mi sembra una cosa concettuale che ci sta, una specie di matrioska, mi sembra molto bello. Sì, l'albero nell'albero, che pensa l'albero e produce l'albero. Buongiorno Marta Cagnola. Buongiorno. Mi avete fatto ballare in pigiama, perché io sono ancora in pigiama. Beata te che sei in pigiama, noi invece abbiamo il nostro pigiama uniforme da studio, insomma, quello che si mette la mattina del sabato. Ma io ho fatto una proposta in radio, non so se ti è arrivata. No. Che possiamo stare in pigiama fino alle 9. Beh, io ci sto assolutamente, idea. Bellissimo. Una grande idea. Mi piace. E poi però dopo le 9 bisogna vestirsi. Però si può venire in pigiama fino alle 9. Ma non è che sei già a Sanremo, vero, in pigiama? No. Non sono in pigiama a Sanremo, sono in pigiama a casa. Anzi, oggi sarò a Vicenza, perché sarò in diretta da Vicenza Oro, quindi mi sto preparando per partire. Oh, ti stai cospargendo d'oro, Sanremo... quindi. Ti stai preparando adeguatamente. No, vado con nulla e mi coprirò d'oro lì. Certo, giustissimo. Certo. No, sono già a Sanremo con la testa, perché ovviamente immaginatevi, per noi è già periodo non solo di conferenze, dunque polemiche, di ascolti delle canzoni e di interviste che cominciamo a preparare, perché ovviamente i cantanti sono 24 e quindi un po' di interviste vanno preparate prima. Ma quindi tu hai già sentito le canzoni di Sanremo? Che fortunella, le ho sentite ieri mattina tutte. Beh, sei la prima persona che sento che ha già sentito le canzoni di Sanremo 2020. Quindi insomma, vabbè, ma non ti potremo ovviamente chiedere nessuna indiscrezione. Ma prima parliamo di cinema. Mi puoi chiedere solo indiscrezioni. Ah, certo. Solo indiscrezioni, no, giusto. Nel senso, non ufficialità. Posso dire solo impressioni, ovviamente. Autorizzata, perché abbiamo fatto l'ascolto per la stampa, insomma. Ma dobbiamo parlare di cinema questa mattina. Esattamente, perché ci sono degli ottimi dati. Nel 2019 al box office si sono incassati mamma mia, una cifra enorme, 635 milioni di euro, per un numero di presenze in sale pale a 90. Mamma mia, come sono, quest'anno è andata benissimo, non è, sì, finalmente è bene, un è bel bene. Segno sì, più sì. Allora, è un bel segno più. Poi questi 97 milioni di spettatori totali, facciamo che arrotondiamo un po' per un grande eccesso, ma insomma per capirci, sono quasi 100 milioni di spettatori, il che ci fa capire ancora una volta come il cinema sia ancora, viva Dio, nelle passioni degli italiani. Allora, gli incassi sono aumentati rispetto all'anno prima del 14,3%, le presenze del 13,5%, è il quinto risultato dal 2010 e il quinto dal 2010 e il nono dal 95. Quindi, insomma, stiamo tenendo. Ovviamente è un'industria che deve incrementare e allo stesso tempo tenere la passione, perché la concorrenza rispetto al 2010, figuriamoci al 1995, è enorme. Le piattaforme, le reti satellitari. C'è di tutto e di infatti più ormai. È anche per questo forse che questo dato è incredibile e inaspettato, nel senso che sono anni in cui si dice il cinema, la gente non va più al cinema, poi in più adesso ci sono le piattaforme, stiamo tutti a casa a guardare Netflix, e invece non è così. Diciamo, abbiamo come sempre un po' urlato a dire, vedi adesso Netflix, la gente non va più al cinema, invece evidentemente porta più gente al cinema. Non solo, porta anche dei soldini al cinema Netflix, perché comincia a coprodurre film che a volte vanno solo sulla piattaforma, con tutte le polemiche del caso, ma si è visto che quando escono in contemporanea al cinema, sto parlando del film di Alessio Cremonini, Sulla mia pelle, quello sul caso di Stefano Cucchi, ma sto parlando anche di Irishman, sto parlando anche di Roma. Quando escono al cinema ci sono persone che giustamente, o perché non sono interessati a vedere Netflix e quindi non hanno interesse ad abbonarsi, oppure preferiscono vedere il film al cinema. O perché sono Scorsese va guardato al cinema, effettivamente, insomma. Presente, l'ho visto al cinema, tre ore e passa sono. L'ho visto. Non mi è piaciuto, lo ammetto anche, non mi è piaciuto molto, ma non importa. Però il dubbio è che c'è chi dice che in realtà questi film vanno al cinema solamente per poi poter partecipare ai concorsi, perché ci sono alcuni concorsi che non ammettono film che sono andati solamente sulle piattaforme, ma che devono essere usciti almeno una volta in sala. Allora, questo vale ad esempio per Cannes, è la grande sfida Cannes-Venezia. Cannes ha questa regola così un po' purista, Venezia, che invece appoggio in toto, dice un film è un film, se è un prodotto cinematografico, comunque prodotto da una piattaforma, anche perché ragazzi, se hanno i soldi per produrli, bene che lo facciano, insomma, diciamo così, anche perché poi bontà loro, pagano ancora tantissimo le star. Quindi per Venezia vale tutto, e comunque alla fine si è visto che il film che va a Venezia, che magari vince Venezia, che magari vince l'Oscar, comunque esce al cinema per il pubblico diverso. Ci sono un paio di altri dati che vorrei sottolinearvi per il Si può fare. Uno, che sono andate piuttosto bene le produzioni e le coproduzioni italiane. Esatto, anche qui ci avremmo portato sicuramente. Prego, ecco, prego. C'è solo un italiano nella top ten ed è uscito in zona Cesarini, che è il film di Ficarra e Picone, Il primo Natale. Però le produzioni e coproduzioni italiane sono andate bene, e questo è un ottimo dato per tanti punti di vista. E stiamo parlando del 2019, giusto? Perché del 2019, quindi anno senza Checco Zalone. Ecco, anno senza Zalone. Te lo chiedevo proprio per questo, perché immaginavo che la maggior parte degli ascoltatori 2020. Pensassero, ah vabbè, sarà tutto Checco Zalone. Invece no, intanto incasso erano Ficarra anche... e Picone. Sì, hanno fatto anche una proiezione del 2019 più feste, però diciamo che quello, insomma, teniamocelo per i dati del 2020. Giusto, giusto. Allora, la percentuale è andata bene. C'è solo un film nella top 10 e questo è un peccato, però c'è anche un altro segnale nel segnale. Il film di Ficarra e Picone non è un cinepanettone. Quest'anno non sono usciti cinepanettoni, che vuol dire che il gusto degli italiani, magari era così anche prima, però si sta muovendo verso film un po' diversi. Allora, la comicità sì di Ficarra e Picone, ma in un film molto diverso. La stessa cosa anche sarà poi nel 2020 per Checco Zalone. Sì. Film che hanno incassato bene come Martin Eden, come Il traditore, che qualche anno fa, insomma, forse sarebbero passati come film di nicchia. E questa cosa, insomma. Quindi c'è un po' più di voglia di serietà, di riflessione, sia pur ironica, di contenuto. Sì, di film di qualità, di contenuto, ecco, diciamo così. Perché un film come quello di Ficarra e Picone, io lo dico per chi non l'avesse visto, sì, è un film comico, ma è una sorta di Non ci resta che piangere, diciamo, di Ficarra e Picone, che vengono proiettati nel tempo indietro fino al primo Natale. Quindi si racconta la storia, è comunque un film comico, ma non è il cinepanettone che per tanti anni ha accompagnato gli incassi natalizi. L'altra buona notizia è che finalmente, dopo anni in cui si dice giustamente, ma l'allargamento all'estate, perché non è possibile, perché gli italiani al cinema d'estate non vanno, c'è un segno più importante anche lì. Quindi si sta aprendo la stagione anche ai mesi estivi, un po' perché i distributori cominciano a far uscire film interessanti anche d'estate. Alcuni vengono comunque spostati, come il film di Tarantino, che è uscito a settembre, mentre in tutto il resto del mondo era uscito ad agosto. Comunque alcuni vengono comunque spostati, però il cinema estivo non è più deserto. Effettivamente, poi con un'estate calda come quella scorsa e... insomma, si teme che potrebbe succedere ancora. È un bel rifugio il cinema. È un bel rifugio. Cinema. Quindi dal cambiamento climatico alla fine qualcuno trova beneficio. Vabbè. Un cinema buio e fresco, forse. No, scherzi a parte, insomma, anche dal punto di vista distributivo c'è stato più coraggio, quindi più film d'estate, e quindi l'industria tiene anche d'estate, ecco. Bene, la bella e brava Marta Cagnola. Grazie. Allora ragazzi, vi devo dire una cosa. Dicela che siamo in chiusura, dai. Oggi a RadioTube, mi faccio pubblicità, ho intervistato Amadeus. Sì. E l'ho, non si poteva, ma l'ho sfruculiato lo stesso su questo tema. E vabbè, dovete sentirlo, non vi dico ora, niente. Che ora? Dalle 16 alle 18. Benissimo, dalle 16 ecco. alle 18. Ci ritroviamo oggi pomeriggio, torniamo sulla questione. Adesso c'è GR24. Ovviamente potete continuare a scrivere per gli alberi e le persone a cui volete dedicarli. Prenotarvi per il quiz. Questo è molto importante. 824 0024. Alle 9.15 ci sarà tra l'altro il ministro Costa per parlare di smog. Si può fare. Cronache da un paese migliore. I see trouble on the way. 9 e 8 minuti, stavo dicendo alle 8 e 9 minuti, sono rimasta indietro e per di più ho perso anche il minuto. Bloccavi il paese, eh? È cambiata l'ora. Abbiamo ancora un'ora. Alle 9 e 8 minuti, torniamo in studio. Allora, Carlo Gabardini, buongiorno anche buongiorno, a te. Buongiorno Laura Bettini. Ogni tanto ci dobbiamo presentare nome e cognome. Perché... giusto, e queste si può fare. E queste si può fare. In regia c'è Paolo Corleoni e in assistenza Edoardo Lavezzari. E così abbiamo ripassato tutti quanti, i presenti. Esatto, ripasso solo una cosa, visto che c'è un'ascoltatrice che ce lo chiede, perché abbiamo scoperto che a Firenze si può dedicare un albero, hanno messo 400 alberi da dedicare, chiunque vuole può farlo. La signora che è di Firenze ci chiede come si fa, e allora basta andare su ambiente.comune.firenze.it/dona-un-albero, oppure più semplicemente digitare dona un albero Firenze su Google e su un altro motore di ricerca, ovviamente, e ci si arriva. Benissimo, no, lo dico ricordando anche che vi chiediamo a tutti voi, sia via messaggio sia via telefono, di dirci a chi dedichereste voi un albero. E vi ricordiamo che sempre all'800 24 0024 vi potete prenotare per partecipare al nostro quiz. Quello che ti presento tra poco invece è un ospite che si occupa di un progetto molto interessante, un progetto di nome Linfa, che non ha a che vedere con gli alberi però, di cui stiamo parlando in questo momento, ma con gli ospedali. Ed è Carlo Bianchi di Net Studio, responsabile appunto del progetto Linfa. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, buongiorno. Il vostro progetto punta a semplificare, migliorare, anche economizzare, no? il lavoro degli ospedali che devono, di strutture sanitarie grandi, che devono ordinare i farmaci, in sostanza, i dispositivi medici. Esatto, questo esatto. È il tema. Perché si chiama Linfa però? Dunque, Linfa è un acronimo perché significa logistica intelligente del farmaco. Quindi lo scopo, appunto, come diceva lei, è quello di ottimizzare il processo di approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici, proprio con lo scopo di cercare di contenere i costi, ovviamente comunque puntando sulla sicurezza dei pazienti che stanno nei reparti ospedalieri. Allora, quindi, siccome la sentiamo un po' a strappi, faccia attenzione se riesce a trovare un punto migliore, perché altrimenti ci perdiamo. Linfatico. Un punto linfatico. Un punto linfatico, aspetti che trovo. Ma senta, ma lei ci parla da Firenze per caso? Visto l'accento magari, è simile, no? Mi sentite meglio adesso? Sì. Molto meglio. Molto meglio. Dicevo, lei è fiorentino? Io sono fiorentino, sì. L'albero non l'ha comprato ancora, però. No, l'albero ancora no. Vabbè, magari, insomma, ottimizzando appunto le spese degli ospedali, magari si riesce anche a comprare più alberi. Sono lo stupido del gruppo, quindi ho bisogno di capire esattamente che cosa fa questo Linfa, nel senso di capire quale problema risolve. Ho capito bene che serve per approvvigionare gli ospedali di farmaci, perché molto spesso gli ospedali o ne comprano troppi e poi scadono, oppure a volte sono insufficienti per il tipo di malattie che devono curare. Esatto, diciamo così che normalmente il personale ospedaliero che lavora nei reparti è anche giustamente, direi, focalizzato più sulla salute dei pazienti piuttosto che su situazioni amministrative o situazioni, diciamo, di approvvigionamenti o cose varie. Per cui, diciamo, quello a cui tendono è avere una disponibilità di farmaci e dispositivi medici, diciamo, o molte volte anche superiore a quello che è effettivamente il fabbisogno. Certo. Proprio per garantirsi quando ci sono situazioni di urgenza o cose particolari, diciamo. Quindi, La domanda stupida però è questa, nel senso che cosa fa di diverso, nel senso che noi ci immaginiamo un file Excel che uno mette tutte le cose e dice quante aspirine ho, quante escono, quante me ne rimangono, insomma, che può sembrare una cosa un po' semplice, invece voi fate una cosa molto più complessa, diciamo, giusto? Diciamo che il prototipo è ovviamente un'applicazione software che, diciamo, acquisisce le informazioni relative alle somministrazioni di farmaci che avvengono giornalmente nei reparti e le passa a un algoritmo che via via che riceve informazioni si informa sempre di più, diciamo, diventa sempre più competente e è in grado di suggerire dei quantitativi di riordino basati appunto su dei consumi storici, diciamo. Quindi impara un'intelligenza artificiale. È un'intelligenza artificiale che via via che riceve informazioni, diciamo, impara sempre di più. Per cui alla fine più si va avanti, più è in grado di proporre quantitativi da ordinare sulla base dell'esperienza ovviamente già fatta. Senta, ma gli infermieri che lo devono utilizzare, cioè sono sempre gli infermieri che lo utilizzano e quindi devono specializzarsi, imparare a utilizzare questo software, oppure va a finire in altri reparti, insomma questa gestione non spetta più agli infermieri? Allora, diciamo che comunque le interfacce ci sono su tutti i reparti, però diciamo il sistema per lo più è automatico, nel senso che tenendo sotto controllo le scorte e tenendo sotto controllo i consumi medi, diciamo, permette di riordinare in maniera automatica farmaci ai fornitori. Diciamo che l'intervento manuale da parte degli operatori si riduce abbastanza, soltanto nel caso in cui ci sia da forzare dei quantitativi per situazioni particolari, diciamo. Ecco, questo è un po' lo scopo del progetto. L'ultima domanda che le voglio fare, visto che abbiamo un minutino solo, è dove lo state testando questo progetto? Dunque, è stato testato per alcuni mesi presso un reparto di un ospedale della Toscana e cioè, è stata una persona, una nostra persona è stata in reparto per simulare, diciamo, per portare avanti l'attività e ha fatto un'operazione normale come è fatta sempre, quindi manuale, e ha fatto la stessa cosa utilizzando lo strumento previsionale. Alla fine sono state tratte delle conclusioni molto interessanti da un punto di vista appunto di contenimento dei costi, visto che abbiamo notato dei risparmi notevoli, insomma, su questo discorso. Quindi diciamo è un sistema che dà un supporto decisionale molto importante a delle persone che normalmente, diciamo, si occupano principalmente di altre cose. Ecco, questo è un po' il concetto. Certo, che così possono tornare ad occuparsi di altre cose. Grazie mille, Carlo Bianchi, grazie molte, buon lavoro, buon proseguimento, abbiamo la viabilità. Si può fare. Promo 24. Appuntamento alla Pipeline and Gas Expo 2020, The Utility Construction Show, l'unica manifestazione fieristica in Europa interamente dedicata ai comparti del midstream e delle reti distributive di gas, oil and water. Attrezzature, strumentazioni e prodotti per la costruzione, il monitoraggio e la manutenzione delle pipelines e tecnologie dedicate alla gestione di gasdotti, oleodotti e acquedotti. Alla Pipeline and Gas Expo 2020 sono anche previsti convegni con relatori di fama internazionale dedicati al futuro del mercato del gas e del biogas e alle tecnologie del LNG anche nel comparto marittimo e dell'autotrazione. A Piacenza Expo dal 20 al 22 maggio 2020. Per info pgexpo.eu. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Una scelta molto opportuna di Danilo Di Trani con questa canzone, che le ragazze vogliono solo divertirsi, no? Dice Cyndi Lauper, quindi certo. Mi pare proprio che sia la giornata delle ragazze che vogliono solo divertirsi. C'è un messaggino a proposito di tutto quello che abbiamo detto prima che riassume un po' tutto, la summa teologica, come l'ha definita Edoardo. Dedicherei un albero ad Amadeus, viva la sua sincerità. Troppo spesso belle donne vengono scelte o scartate pur avendo talento e capacità, ed è firmato da Mirella. Tutti insieme. Da invece, Amadeus agli alberi. Io ricordo un albero dedicato a Meneghin che compie 70 anni e mi sembra un bel modo anche per ricordare oggi il suo compleanno. E ricordo anche un ascoltatore che vorrebbe dedicare a Firenze un albero a Margherita Hack, che poi è la sua città, quindi giusto. Insomma va benissimo. E tra tanti messaggi che arrivano su questo tema, diamo però il benvenuto al ministro dell'ambiente Sergio Costa. Buongiorno. Ministro, ci sente? Non ci sente. vediamo di recuperarlo, magari, se non so, se la linea, se quale, qualunque sia il problema, noi vogliamo parlare con il ministro dell'ambiente di smog, di città inquinate, perché sappiamo i blocchi del traffico sono stati un po' ovunque. A Roma c'è lo stop and go, oggi si può andare, domani però di nuovo c'è la domenica ecologica. Insomma, a Milano addirittura flash mob contro i negozi che tengono le porte aperte e proteste, e chi dice non serve a niente, chi dice serve molto. Diciamo con un'unica certezza: tutti gli anni siamo in questa incredibile emergenza e non capiamo perché dobbiamo chiamarla emergenza, visto che capita tutti gli anni, si chiama norma. Il ministro c'è? No, aspettiamo un attimo ancora. Dicevo, c'è addirittura a Torino l'invito in una memoria che il comitato che si chiama Torino Respira ha inoltrato alla procura del capoluogo piemontese alcune settimane fa, l'invito a procedere per il reato di disastro ambientale in merito al caso smog nella città di Torino, che è una delle effettivamente città in cui la questione dell'inquinamento atmosferico è più evidente e pesante. Ministro, adesso è in collegamento con noi, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno Ministro. È un piacere risentirla, ci fa tanto piacere che abbia accettato il nostro invito. Come sa, vogliamo parlare con lei un po' di questa situazione delle città italiane, dove ciclicamente si ripresenta il problema dell'inquinamento atmosferico, ciclicamente vengono rifatti i blocchi del traffico, che sono l'unica misura che i sindaci hanno a disposizione, no? Immediata. Ma insomma, ci domandiamo che altro si sta facendo oltre a bloccare, no, le auto quando si arriva al livello più alto della crisi. Che misure abbiamo in campo? Abbiamo parlato tanto del piano, no, per il nord, però poi dopo. Dunque, guardi, intanto ovviamente la misura, come ha detto lei correttamente, emergenziale, quella di bloccare i veicoli maggiormente inquinanti, che è quella misura nella cosiddetta penna del sindaco. Però ci sono anche misure strutturali che hanno un tempo tecnico, però ci sono, e questo già va salutata come una cosa nuova che prima non c'era. Lo dico perché noi siamo sottoposti a infrazione per la qualità dell'aria, infrazione europea, e quindi paghiamo dei soldini all'Unione Europea. Io personalmente, direi soldoni, giusto? Dei soldoni, esatto. Io personalmente ho negoziato con l'Unione Europea, tant'è vero che siamo riusciti a ottenere un percorso congiunto firmato dall'Unione Europea e dall'Italia, l'abbiamo firmato il 4 giugno scorso a Torino, non per caso ovviamente a Torino, certo, il Clean Air Dialogue, dove insieme abbiamo assunto degli impegni. Ora dice, vabbè, ma gli impegni poi sono carta che vola. No, ci abbiamo finalmente anche delle risorse, quindi abbiamo messo oltre, siamo arrivati a già circa 1 miliardo di euro, che diamo a chi? Ovviamente voi potete immaginare, il governo nazionale ha un riferimento sul territorio che si chiamano governi regionali, diamo alle regioni queste risorse affinché poi le regioni insieme ai comuni facciano i piani. I piani che cosa consistono? Lo sviluppo del trasporto pubblico locale a basso impatto, acquistare per esempio autobus elettrici, mezzi su rotaia, per chiarirla in modo semplice, intervenire aiutando il cittadino a cambiare per esempio le vecchie stufe a legna, che abbiamo visto che incidono significativamente. In una maniera incredibile, tra l'altro a Roma ho visto, tra l'altro a Roma, dove uno non pensa che sia quello, no? Una delle fonti. Esatto, poi abbiamo messo anche con la legge clima altre risorse, perché le regioni / comuni, nella trafila che le ho detto, sistemassero anche tutto il trasporto dei bimbi a scuola, gli scuolabus elettrici, e poi una misura ulteriore che a me mi sta particolarmente ancora a cuore, ma tutta la riforestazione urbana. E noi sappiamo quanto le alberature non solo modificano e ci migliorano il paesaggio, ma sono quelle con le loro foglie, il sempreverde in particolare, ti assorbe tutte per esempio il particolato. Infatti abbiamo iniziato proprio parlando di alberi a Firenze che vengono piantati dai cittadini. Ho sentito, ed è proprio questo l'elemento. Tutto questo è aiutato dal governo nazionale con dei fondi veri e propri assegnati alle regioni, che poi attraverso i bandi comunali li mostrano concretamente sul territorio. È chiaro che sono misure strutturali, queste misure strutturali hanno un tempo tecnico, abbiamo iniziato recentemente perché dovevamo negoziarla con l'Unione Europea, ma finalmente la fine del tunnel si vede, e questo mi sembra che va salutato positivamente. Certo. È ovvio che nel frattempo i sindaci non hanno che la misura emergenziale. L'importante è che però dalla misura emergenziale poi tutti questi bandi li incominciano a far girare, come si suol dire. Sì. Ecco, ma è esattamente il problema di queste misure emergenziali. Siamo tutti un po' stufi di chiamarla emergenza smog, perché sappiamo tutti il giorno che inizia e il giorno che finisce. E sappiamo tutti che, tra l'altro, che lo smog è gravissimo, che ci sono decine di migliaia di morti che muoiono per smog. Sì. Solo che, siccome si vedono molti anni dopo, se noi vedessimo i morti per strada tutti gli inverni, credo che nessuno si lamenterebbe delle ZTL. Quello che le voglio chiedere è, siccome lei, e noi ne eravamo anche molto contenti, addirittura ad ottobre dell'anno scorso diceva che bisogna affrettare i tempi perché giustamente lei, essendo bravo come ministro, ha detto sappiamo che sta per arrivare l'emergenza smog, e ci chiediamo come mai non l'hanno ascoltata a sufficienza, oppure quel piano non ha funzionato come doveva funzionare, quello che è partito ad ottobre. No, in realtà io sono sicuro, qui non c'è il sindaco che non ti ascolta, il presidente della regione che non ti ascolta, devo dire la verità, e non è questione, come dico sempre, di colori o di appartenenze, è una questione banalmente tecnico-amministrativa, cioè intendo dire, il piano è partito a ottobre, però è chiaro che io uso un termine un po' così più operativo, nel frattempo che si scarica sul territorio, cioè dei tempi tecnici. I tempi tecnici sono, banalizzo, le gare per l'acquisto degli autobus, piuttosto che un meccanismo di intervento materiale proprio, e ahimè a volte le pastoie amministrative e burocratiche locali incespicano su queste cose. Però io continuo a sostenere un elemento importante, guardi, se il sindaco, piuttosto che il presidente della regione, ripeto, senza colore o appartenenze, ha ormai il modo di poter andare avanti, deve coltivare questa visione, perché allora sarebbe gravemente colpevole se andasse avanti solo a colpi di emergenza, perché ormai le risorse ci sono, la visione c'è, l'Unione Europea c'è a fianco, vuol dire che è veramente un imbelle chi lo fa. Ecco, questo è l'elemento da tenere monitorato, secondo me. Ognuno cosa veramente fa, senza cosa vorrebbe fare, ma cosa fa? Sì, senza spostare troppo in là le cose. Dici, io aspetto il bando. Esatto. Sì, va bene, però io direi nel frattempo si potrebbe programmare, che ne so, un giorno alla settimana senza traffico, oppure più controlli per le caldaie, se sono adeguate, per esempio, se sono a norma, brava, se sono i negozi tengono la temperatura prevista e così via, no? Ma non so, per esempio, pensi tutto all'abbruciamento dei residui vegetali, per esempio. Qualche cosa anche per aiutare gli agricoltori, noi ci abbiamo messo delle risorse, ma per esempio quelle sono quasi tutte competenze ormai regionali. Su queste cose le regioni che cosa fanno per dire? Ecco, io andrei a vedere non in termini polemici, ma in termini tecnici, ognuno che cosa fa. Noi abbiamo questo monitoraggio, ci rendiamo conto che c'è molta attenzione, deve diventare, secondo me, passare dal livello di attenzione al livello di priorità, che è diverso. Certo, e sulla questione delle priorità, però, immagino, lei giustamente dice i fondi ci sono, un po' di fondi ci sono, perché da quello che capiamo ne servirebbero tantissimi, perché andrebbero sostituite la maggior parte delle caldaie, perché andrebbero sostituiti tutti i mezzi pubblici. Quindi in realtà quando le risorse sono ristrette bisogna chiedersi quali sono le priorità, cioè la priorità è il traffico, la priorità è il controllo delle caldaie, quali di queste secondo lei è la vera priorità? Ma guardi, le dico subito, lei deve considerare che quelle risorse che io le ho dette, questo circa miliardo di euro, sono del Ministero dell'Ambiente. Sì. Oggi sono quelle del Ministero delle Infrastrutture, oltre 3 miliardi e mezzo di euro per il trasporto pubblico locale e il trasporto su rotaia. Ovviamente parliamo quindi di cifre ben più ampie sulle quali è programmazione. Allora dico, se le risorse per esempio per il cosiddetto TPL, il trasporto pubblico locale, sono belle e robuste, sono di meno, io lo noto appunto per le caldaie, per esempio, sì, le caldaie vecchie, intendiamo, quelle particolarmente inquinanti, e per i controlli. Bene, allora dico appunto, regioni e comuni, i soldi ci sono, utilizzatele più per quello, cioè spostate quell'asse di questi residui e risorse che vi dà il Ministero dell'Ambiente per esercitare questo tipo di attività, in modo tale che componi un puzzle. Metti due tasselli, l'uno te lo dà il MIT, il Ministero delle Infrastrutture, l'altro il Ministero dell'Ambiente, e quindi magari ci metti qualcosina anche tu. L'Unione Europea ha già dato la massima disponibilità con ulteriori risorse, con fondi speciali, vedete? Sì, non sì, è sì, più una questione di fondi, è una questione di priorità, come avete detto voi. Dunque, certo, le chiedo un'ultima cosa, perché so che adesso ci deve lasciare, ma diciamo che c'è qualche amministratore che si domanda da che parte cominciare. Lei che consiglio dà, diciamo, conoscendo la situazione italiana? Dice, guardi, amministratore, inizia da i trasporti? Inizia da un'altra cosa? Io inizierei subito con un piano straordinario dei trasporti, che sia su rotaia principalmente, e comunque, se non è possibile su rotaia, su mezzi a gomma, ma a basso impatto, a zero impatto. Quello è un elemento secondo me fondamentale, anche perché è facile dal punto di vista programmatorio e c'ha i suoi tempi, però intanto inizi. Non è solo la metropolitana, ma è l'autobus elettrico, non solo delle grandi città, ma pensi tutti a quelli provinciali, per esempio, quelli che camminano su distanze più ampie. Quello già si può pianificare a livello di enti locali, già, e poi col sistema dell'efficientamento domestico, perché c'è anche un altro tema: nel momento in cui tu intervieni sull'efficientamento domestico, che tanto per essere chiari è la stufa a cui facevamo riferimento prima, vecchia, datata, inquinante, piuttosto che altre, la caldaia condominiale, tanto per essere chiari, bene, in quel caso tu ottieni un altro risultato: entrando nelle case dei cittadini, aiutando il cittadino, fai anche una sana moral suasion, incominci a incontrare quel cittadino, quindi diventa non solo un aiuto al cittadino, ma anche una informazione / formazione, e questo secondo me è ancora più importante. Okay. Bisogna forse iniziare anche con un po' di multe, perché le dico, sulla questione del controllo delle caldaie so di molte persone che nella propria assemblea di condominio alla fine è lo stesso amministratore che dice, finché non arriva la multa noi non la cambiamo, tanto poi la dividiamo per 30 condomini, quindi la multa è abbastanza irrisoria, quindi forse ha ragione, questo è un problema. C'è anche questo aspetto cosiddetto repressivo o aggressivo. Però è anche vero che molto spesso molti amministratori di condominio o comunque titolari di abitazione poco conoscono che ci sono degli incentivi così sostenuti anche in questa legge di stabilità, che oggi conviene farlo. Per cui io dico, più che pressarti, io ti sostengo. Ti sostengo perché ci vai a guadagnare, lo scarichi dalle tasse, praticamente sei cambiato la caldaia quasi a costo zero, ed è un investimento anche che ti alza a livello del patrimoniale del tuo appartamento, del tuo condominio. Molto spesso non si fanno queste cose. Benissimo, ministro, grazie molte allora. A lei. Buon proseguimento, buona giornata, alla prossima. Mille. Grazie. Vogliamo ricordare, prima di dare così una piccola pausa, che dal Ministero dell'Ambiente, noi sapevamo che il Ministro Costa adesso non aveva tempo di discuterne, però è partito un piano per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto nelle scuole e negli ospedali. Un piano da 385 milioni di euro ripartiti tra le regioni per le bonifiche di scuole ed ospedali, quindi una questione molto importante che ci fa piacere che sia stata affrontata. Qui si tratta non di fondi nuovi, ma di sblocco di fondi esistenti. Ma insomma, adesso ci saranno. Una pausa, tra poco. Si può fare. I consigli che vorreste sentirvi dare dagli amici, quelli veri. Sicuramente consiglierei un dottorato in Germania, soprattutto nei settori tecnici. Le dritte che non avete mai osato chiedere. Oggi un curriculum per l'estero deve essere soprattutto focalizzato sulla massima concisione e focalizzazione sulle proprie esperienze professionali. Le offerte di lavoro che non potrete rifiutare. Eurisvezia ci ha contattato per una richiesta di infermieri per l'ospedale universitario Karolinska di Stoccolma. E se cercate casa? Standard abitativi un po' diversi da quelli a cui siamo abituati. La cosa bella, spesso fai amicizia con i tuoi coinquilini, perché non sarai mai solo, ecco. A Generazione Mobile, il primo passaporto radiofonico valido per l'espatrio, vi guidiamo nel vostro futuro all'estero. Che ci andate per studiare, lavorare o fare impresa, noi saremo al vostro fianco. Sono Sergio Nava, vi aspetto il sabato alle 13.30 su Radio 24 e anche in podcast su radio24.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Six in the morning, the man started working. I can't sleep, no, I can't sleep. I keep feeling the light, so I think I should get up and call you. Gonna find you. And it's fun. Datemi messaggi arrivano ancora sulla questione degli alberi da dedicare a Firenze. Ci sono anche molti messaggi che se la prendono invece con l'amministrazione comunale, perché ne ha abbattuti tanti, perché insomma ci dobbiamo informare. Sicuramente ne sono stati abbattuti tanti a Firenze, come a Milano, come in tante altre città. Il programma di ripiantumazione, diciamo, è interessante. Vorrei dire che poi a Firenze c'è uno dei migliori centri italiani che si occupano di arboricoltura, e c'è uno dei luminari italiani dell'argomento, che è il professor Ferrini. Quindi mi immagino che almeno in città ci sia uno sguardo un po' più attento, un po' più informato, o volendo in città ci si possa informare molto bene, insomma, alla Università di Firenze. Comunque, ben vengano tutti i messaggi, le comunicazioni degli ascoltatori. Tornando alla questione emergenza smog, che tra l'altro gli alberi abbattono, no Carlo? Per cui meglio se ce n'è che se non ce n'è. Assolutamente. Vorremmo adesso collegarci, anzi non vorremmo, ci colleghiamo adesso con una delle città europee che più ha fatto per migliorarsi nel corso del tempo, proprio sulla questione dell'inquinamento atmosferico, in particolare quello proveniente dal traffico urbano. Questa città è Madrid e in collegamento con noi da Madrid c'è Valeria De Magistris. Buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno Valeria. Allora, buongiorno. Vorremmo intanto sapere cosa stai facendo adesso. Tu sei un'organizzatrice di tour, in particolare la compagnia si chiama Amigo Tours, risiedi Corretto. A Madrid. Accompagni quindi i turisti sugli autobus, quelli grossi? O no? No, io diciamo lo organizzo. Tu li organizzi? Esatto. Ma io sono sull'autobus o sono le guide turistiche? Sono sull'autobus o vanno a piedi? Come sono questi tour? Dipende dal tour. Noi abbiamo dei tour che vanno poi su delle zone vicine a Madrid, e quindi in questo caso ovviamente c'è bisogno del bus, oppure ci sono poi dei tour a piedi direttamente nei monumenti principali qui nella città. Va bene, ma a parte detto questo, che non era il centro ovviamente della nostra discussione, però anche tu per muovere i turisti avrai dovuto tener conto di queste nuove limitazioni che sono state imposte negli anni al traffico urbano. Come sono? Come funziona? So che adesso sono state un po' ammorbidite con il nuovo sindaco, ma insomma l'impianto un po' è rimasto. Sì, esatto, la vecchia amministrazione insomma ha inserito questo programma che è il Madrid Central, che praticamente è la zona, la ZTL, quella che conosciamo come la ZTL, la zona a traffico limitato. Soprattutto questo riguarda quella che è la zona centrale, cioè proprio il centro, il fulcro principale di Madrid, dove ovviamente c'è il blocco quasi completo, c'era perlomeno prima un blocco quasi completo per entrare, diciamo, in macchina nella zona centro. Ovviamente ci sono alcuni permessi speciali, i residenti ovviamente possono entrare perché ovviamente devono, per questioni pratiche. Poi c'erano alcuni permessi per macchine eco, insomma per poter comunque entrare nella zona e stazionare un limite di tempo, eccetera eccetera. Quindi insomma, era una delle migliori, così abbiamo letto e abbiamo nei mesi scoperto, era una delle migliori ZTL d'Europa. È la ZTL che ha permesso alla Spagna di non pagare la multa, quella di cui ci parlava anche il ministro Costa poco fa, multe alle quali siamo soggetti anche noi, e invece c'era un sindaco, una sindaca anzi precedente, Manuela Carmena, e adesso è arrivato invece un sindaco di destra che ha deciso togliamo tutto, poi in realtà non proprio tutto, però diciamo il suo annuncio è stato togliamo tutto, chi se ne frega della ZTL, vive le automobili. Sì, esatto, praticamente all'inizio proprio la prima cosa che ha detto è stata esattamente questo: togliamo, non ce n'è bisogno, questo crea solo disagi a Madrid. In realtà non credo che creasse questo gran disagio, anzi si poteva comunque notare come l'aria era più pulita, più sana, quella che possiamo respirare. Tra l'altro Madrid è su un altopiano, quindi ha un vantaggio rispetto a città come Milano, ma in generale tutta la pianura padana. No, lì un po' di vento tira sempre, non è proprio stabile e fermo. Sì, qui sì, sempre. E dunque, i disagi, dici, non erano particolarmente, no, corposi, anche perché la rete di trasporto pubblico locale è piuttosto buona, nei miei ricordi. Esatto, cioè nel senso, ovviamente come in tutte le cose c'era chi la pensava positivamente, chi la pensava negativamente, come in tutto, no? Ci sono quelli d'accordo e quelli non d'accordo. sicuramente Madrid ha una rete di trasporti che praticamente ti collega con tutta la città, c'è una linea di metro che praticamente nell'unica linea di metro ti collega ai due punti estremi di tutta la città, e non solo, ci sono anche molti trasporti pubblici per tutte le zone limitrofe, quindi di conseguenza alla fine non era così disastrosa come cosa non poter utilizzare la macchina. E quindi come mai un sindaco, perché poi è un po' questo anche che ci chiediamo, come mai un sindaco decide che come misura simbolo da distruggere dell'amministrazione precedente sia una ZTL che viene considerata una delle migliori d'Europa, che ha migliorato l'area? Ricordiamo che negli ultimi 10 anni l'inquinamento atmosferico in Spagna ha ucciso 93.000 persone. Non si capisce bene come mai ci siamo messi su questa battaglia dove addirittura c'è una parte che è negazionista e l'inquinamento non esiste, le macchine vanno bene, è bene che respiriamo dai tubi di scappamento. Sì, effettivamente, cioè è una cosa che in realtà molti dei madrileni ancora continuano a non capire il perché di questa di questa scelta. Sinceramente io non, certo, non riesco... tu stessa non glielo puoi, non, certo, non ce lo puoi, esatto, spiegare. Però ecco, volevo aggiungere prima di salutarti che i dati che ho trovato relativi a questa area, in particolare la stazione di misurazione di Plata del Carmen, quindi insomma siamo proprio nel supercentro, ecco, i dati, sì, di inquinamento erano inferiori del 44% rispetto all'anno precedente, quindi quasi un dimezzamento. Direi, sì, che era insomma un dato oggettivo, ecco, questo che rendeva comunque della capitale spagnola una di quelle che avevano fatto di più e ottenuto di più sull'inquinamento atmosferico. Noi ci auguriamo che insomma alla fin fine si rientri un po', si trovi un equilibrio tra il vecchio e il nuovo ordinamento. Grazie molte. Allora, Valeria De Magistris, buon lavoro, grazie, buon proseguimento. Anche per i turisti l'aria pulita è importante, visto che quando si va in giro c'è bisogno insomma di camminare, c'è bisogno di stare all'aperto, di visitare, e lo si fa meglio se l'aria è pulita. Soprattutto è importante per tutti, è per questo che trovo molto spiacevole il fatto di aver fatto diventare questo politico tema, cioè il tema ambientale, un tema politico in cui ci sono appunto da un lato una parte politica che è negazionista e l'altra parte politica invece che è come se quel tema fosse suo. È proprio sbagliata questa cosa, l'aria è di tutti, la, cioè, respiriamo tutti, chi più, cosa allora più Bruno dell'aria. Da Pordenone ha chiamato proprio per dirci la sua su questo tema. Bruna, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno, allora, buongiorno. Di cosa ci voleva parlare? Io volevo parlarle che c'è un argomento di cui nessuno ne parla, che è quello dell'inquinamento dato dalla combustione non tanto della legna, ma del pellet. Bravo, del pellet, in quelle stufette molto pubblicizzate, sì, molto reclamizzate, che hanno avuto il contributo ecologico per essere montate. E diciamo che nessuno ha il coraggio di parlare perché ormai sono popolarissime. Ma creano un inquinamento micidiale con un ragionamento molto semplice. Ogni quintale di legno fa 3 kg di ceneri normalmente. Il pellet non è altro che legno compresso, segatura, polveri e compagnia. Cosa succede? Viene bruciato in queste stufe e non resta niente nella stufa, va tutto quanto per aria. A differenza della combustione del legno... Beh, dovrebbero avere queste stufe dei gran filtri, perché comunque, secondo le ultime norme, dovrebbero avere... È la questione di andare a controllare queste stufe e di controllare che si comprino quelle, diciamo, che ce li hanno. Questo è... Lei pone una grande questione. Le spiego una cosa semplice, perché è anni che questa cosa nessuno ne vuole parlare. Fino a qualche anno fa, lo scarico andava fuori orizzontale. Dopo hanno visto che il fumo andava, le polveri andavano sul vicino, e allora hanno detto no, mettiamo lo scarico per aria, e così vanno al prossimo. Allora Bruno, siccome dobbiamo dare la linea al traffico, io le do appuntamento a una delle prossime puntate, nella quale convocheremo un esperto che ho incontrato proprio in una fiera dove si vendono queste stufe, e che mi ha spiegato, che chiederemo anche a lui, insomma, ecco, magari la richiamiamo in quell'occasione e vi mettiamo un po' a dialogare, ci spiegherete tutto di stufe e di pellet. Grazie molte, Bruno. Semplice. Grazie. Una cosa semplice, in Germania... Bruno, la devo salutare perché purtroppo ci sono degli appuntamenti come la viabilità che vanno all'ora giusta. Grazie molte. Si può fare. si può fare. Cronache da un paese migliore. È il momento della classifica delle migliori notizie della settimana. Carlo, sei pronto? Andiamo? Prontissimo. Benissimo. Inizio io con Casa Savoia. La svolta: dopo 1000 anni l'erede al trono sarà una donna, la 16enne Vittoria, l'annuncio di Vittoria Emanuele ed Emanuele Filiberto, addio alla legge Salica. Ne abbiamo molto parlato in questi giorni, se n'è molto letto in questi giorni, non tutti in Casa Savoia sono d'accordo, noi l'abbiamo giudicata comunque una svolta interessante e positiva e al passo coi tempi, come del resto hanno detto anche appunto Vittoria Emanuele ed Emanuele Filiberto. Storia da chiudere però ancora, non sappiamo. No, esatto, Suni, se mi permetti una battuta. Hanno aspettato di non avere un regno per dire adesso possono diventare anche le donne regine, che lo trovo molto saggio, perché gli uomini fanno casino, poi a un certo punto quando non si sa più come fare si sceglie una donna che risolve la questione. Quindi questo è il modo in cui Emanuele Filiberto ha deciso che sua figlia Vittoria di 16 anni, primogenita, potrebbe essere la potenziale erede al trono, e purtroppo il regno non c'è più. Del regno che non c'è, come se fosse un po' l'isola che non c'è. Va bene. Esattamente. Al quarto posto la regione Lombardia, la questione dei fondi per i disabili. È stato deciso uno stop al taglio ai contributi alle famiglie, taglio che la regione Lombardia aveva promulgato, e invece passa una mozione del PD per ripristinare l'assegno mensile a favore delle famiglie che sostengono i disabili. La mobilitazione delle famiglie porta il Consiglio regionale lombardo ad approvare due mozioni con le quali si impegna la Giunta a rimettere mano alla delibera varata il 23 dicembre, che era quella con cui si decurtava l'assegno mensile assicurato ai genitori che non possono lavorare, appunto perché devono assistere il proprio figlio non autosufficiente, e così siamo ritornati, diciamo, ad avere questi fondi per i disabili. Al terzo posto abbiamo Davos, che per la prima volta mette il clima tra i maggiori rischi finanziari. Sapete che a Davos c'è il World Economic Forum, dove si riunisce un po' tutto il gota mondiale, non solo politico ma anche e soprattutto economico e finanziario. Bene, dopo il piano da 1000 miliardi dell'Unione Europea per dare un'impronta green al vecchio continente, dopo la svolta sostenibile di BlackRock, il re degli investimenti mondiali, che ha messo il tema del clima in cima alla sua agenda, bene, c'è il clima per la prima volta in cima ai rischi globali evidenziati dal Global Risk Report del World Economic Forum di Davos in Svizzera, e il nome che richiama ovviamente grande partecipazione, al pari, insomma, ci sono grandi ospiti in agenda. Quest'anno è attesa tra l'altro Greta Thunberg, come poteva mancare, ma anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Vedremo come se la caverà messo di fronte a questa scelta, clima come rischio globale. E al secondo posto un si può fare, o anzi un speriamo che si continui a fare, una notizia che sia Laura sia a me piace molto, ovvero no all'utilizzo nei luoghi pubblici del riconoscimento facciale. Questa è la posizione della Comunità Europea, sempre anche per ricordarci che ci ricordiamo sempre le cose negative della Comunità Europea, ci sono anche cose positive, tipo questa, che la Comunità Europea dice: va bene, in Cina si fa, in America si fa, noi non pensiamo che sia saggio avere semplicemente riconoscimento facciale, ovvero se una macchina riconosce che la tua faccia corrisponde a quel nome lì, allora tu non puoi volare, non puoi andare in aeroporto, oppure vieni accusato di determinate. Esattamente. E giustamente, come l'Unione Europea frena sull'utilizzo di questa tecnologia, che dice e sostiene che è essere ad alto rischio per la privacy, e ha preparato anche una moratoria per valutare i potenziali pericoli. L'allarme è contenuto in un documento che prevede la possibilità di introdurre un divieto a tempo determinato da 3 a 5 anni per sviluppare una solida metodologia per valutare gli impatti. Questo è molto importante, perché che cos'è il concetto? Non siamo contrari a questa tecnologia, quando inizierà a funzionare davvero, quando per esempio il margine di errore non sarà vicino all'80% ma più vicino allo 0%, ne riparliamo. Per il momento non si usa, perlomeno da noi europei. E al primo posto questa settimana abbiamo una decisione presa in Cina. La Cina limita infatti il ricorso agli articoli usa e getta in ristoranti, alberghi, uffici governativi e di partito. Le autorità hanno preso questa decisione secondo la Commissione Municipale per la Gestione Urbana della capitale cinese. Per limitarne l'uso, le autorità locali stanno elaborando uno specifico elenco di articoli monouso che dovrebbe essere completato entro la fine di febbraio. Questo provvedimento si inserisce nell'azione avviata da Pechino per giungere a una più efficace raccolta dei rifiuti differenziati. L'anno scorso le autorità della capitale cinese avevano approvato un regolamento in materia, entra in vigore il 1 maggio 2020. Secondo la nuova normativa, gli operatori del settore della ristorazione non dovranno offrire ai clienti prodotti usa e getta, comprese le bacchette, le posate, gli articoli per l'igiene personale. Insomma, è una grande scelta, certo. Loro possono fare delle scelte così deterministiche e ottenere, diciamo, il rispetto di questa cosa. Noi lì, in questo contesto specifico, un po' li ammiriamo, però. Giusto. Give me five. All right. Give me five. All right. Vorrei dirti che sulla questione dei pellet si è scatenato l'inferno. Ho visto. Cioè, chi è d'accordo con Bruno da Pordenone, chi è con, dice no, non ne sa niente. Insomma, bisogna tornarci. Mi sa che l'inferno è scaldato a pellet. Mi sa anche a me. Però bisogna trovare qualcuno che ci aiuti assolutamente a mettere un po' d'ordine. Il pellet è sicuramente un problema. Ma anche cambiamo possibile gestirlo pellet. È anche possibile, cambiamo pellet, è anche possibile gestirlo. Quindi io ho in mente questo signore che ho incontrato a questo convegno di stufe e caminetti. Mi dicono: tu sei stato ai convegni più strani. È vero. Però ecco, lo tiriamo fuori dal cappello, giusto, lo mettiamo a confronto, giusto, con i nostri ascoltatori, giusto, a lui potranno curioso chiedere un po' di tutto. Invece un messaggino sulla questione dei Savoia, ammetto che io non sono un esperto di casa Savoia, anche perché non sono un appassionato di fuggitivi, che comunque questo signore Marco da Lugano ci scrive: i Savoia cambiano le regole perché non hanno eredi maschi e la successione passerebbe al ramo attualmente cadetto, con cui c'è garbato odio. Mi sembra interessante, perché in questo momento in cui ci stiamo occupando di quello che succede alla regina d'Inghilterra, tutte le questioni reali, anche noi abbiamo la nostra piccola dynasty reale, quindi in realtà c'è tutta una questione di successione con un ramo che è odiato dall'altro ramo. A proposito di dynasty e quindi di veleni, sentiamo Antonella dalla provincia di Roma che vuole tornare sull'argomento Amadeus. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutte e due, complimenti per la trasmissione. Grazie. Dunque, no, io siccome sono un po' moderata proprio come carattere, pensando a questa, cioè sentendo questa storia di Amadeus, non mi piace dare contro una persona magari solo per una frase, che bisogna vedere nella sua testa come in quel momento l'ha pensata, perché a volte le parole escono un po' troppo rapidamente. Però fa il conduttore, d'altronde noi non è che possiamo entrare nella testa. Sì, però insomma siamo umani. Allora io pensavo, forse, vabbè, la sua frase sulla fidanzata anche a me ha dato fastidio, ma dico, forse arrivi al punto che dobbiamo chiudere, prego. Sì, l'avrebbe intesa più che altro, vabbè, come una cosa per non fare carriera, eccetera. Però il quanto riguarda il resto, noi donne ci dovremmo arrabbiare non per quello che ha detto Amadeus, perché in fondo ha detto che aveva delle belle ragazze, ma in tutti questi anni a Sanremo ci sono state le vallette, belle, cioè quasi sempre belle. Ok, quindi lei dice, purtroppo le devo un po' chiudere, diciamo, io il discorso, ma lei dice insomma le ragazze si dovrebbero forse arrabbiare ed essere loro a fare la rivoluzione. Dobbiamo salutarci, Carlo, a domani. Quindi. A domani, 8:30. Antonella dalla provincia di Roma, grazie anche a lei per aver chiamato. Danilo Di Trani in assistenza e Andrea Piana che è l'autore. Ci ritroviamo domani alle 8:30. A tutti voi buon proseguimento. Ciao.